Ad alta voce, Massimo Popolizio legge I vecchi e i giovani di Luigi Pirandello. Nella vasta sala sonora dell'antica cancelleria nel palazzo vescovile, dal tetro soffitto affrescato e coperto di polvere, dalle alte pareti, dall'intonaco ingiallito, ingombre di vecchi ritratti di prelati, coperti anch'essi di polvere e di muffa, appesi qua e là senza ordine, sopra armari e scansie stinte e tarlate, si legò un brusio d'approvazioni, appena Monsignor Montoro, con la sua bella voce dalle inflessioni misurate, quasi soffuse, di pura autorità protettrice, finì di leggere la pastorale ai reverendi parroci della diocesi sui luttuosi avvenimenti che funestavano la Sicilia e contristavano ogni cuor cristiano. Da quel versetto di San Matteo, Monsignore aveva intitolato quella sua pastorale Semper Pauperes Habetis Vobiscum. Era una giornataccia rigida e ventosa di gennaio, e più volte durante la lettura il vescovo e anche gli ascoltatori avevano rivolto gli occhi ai vetri dei finestroni, che pareva volessero cedere alla furia urlante della libecciata. Terminata la lettura, quelli tra i più vecchi canonici, che conoscevano meglio il debole del loro eccellentissimo vescovo, s'affrettarono a circondar la tavola innanzi alla quale egli stava seduto per farsi ripetere chi una frase e chi un'altra fra le tante di cui Monsignore, dal modo in cui le aveva proferite, era parso loro dovesse essere più contento e soddisfatto. Quella dell'esercito tesata, eccellenza, come dice? Allude alla massoneria, non è vero, vostra eccellenza? E come dice? E Monsignore, dentro gongolante, ma fuori con un'aria di stanca condiscendenza, abbassando sui chiari occhi ovati quelle sue palpebre lievi come veli di cipolla e crollando il capo in segno di affermazione e facendo cenno con la mano di aspettare, cercava nel foglio e ripeteva: «Malvagia e riasetta, malvagia e riasetta, che a suo architetto ha scelto il demonio a Gerofante il Giudeo». «E ecco! A Gerofanti il Giudeo!» esclamavano quelli. «Stupenda espressione, eccellenza! Stupenda! Gagliarda! Gagliarda!» «Ma che vendaccio, buon Dio!» riprendeva a lamentarsi il vescovo, afflitto come da un ingiusto compenso al merito di quella sua fatica. I più giovani canonici, intanto, che più di tutti avevano prestato ascolto alla lettura, si scambiavano tra loro occhiata di disgusto per quei vecchi e sciocchi piaggiatori, di dolorosa rassegnazione per l'accoglienza che il popolo avrebbe fatto a quel vaniloquio che s'aggirava tutto quanto attorno ad una non più ingenua che crudele domanda che i reverendi parroci avrebbero dovuto rivolgere ai poveri della diocesi. Perché mai la miseria, che sempre era stata e sempre sarebbe stata, solamente ora perturbasse così gli animi e gli ordini e prorompesse in così deplorabili eccessi? Pareva ad alcuni di quei giovani prelati che Monsignore avrebbe potuto almeno parafrasare per gli avvenimenti dell'isola l'enciclica recente di Sua Santità Leone XIII De Condizione Opificum, nella quale era pur detto che i proprietari dovessero cessare dall'usura aperta o palliata e dal tenere gli operai in conto di schiavi e dal trafficare sul bisogno dei miseri, invece di mostrarsi così avverso a coloro che osavano attentare all'antica rigidità del diritto quiritario. Tanto più s'affliggevano del tono di quella pastorale del loro vescovo, in quanto che, proprio il giorno avanti, in difesa dei poveri, Pompeo Agro aveva pubblicato un fascicolo nel quale, dopo aver paragonato le condizioni della Sicilia a quelle dell'Irlanda e messo in rilievo il linguaggio e l'atteggiamento assunti da illustri prelati cattolici inglesi e americani nelle questioni economiche e sociali del momento, aveva, quasi per sfida, citato l'insolente risposta del reverendo McGlynn, curato cattolico di New York, all'invito del suo vescovo di moderare la propaganda rivoluzionaria. «Ho sempre insegnato, Monsignore, e sempre insegnerò fino all'ultimo respiro, che la terra è di diritto proprietà comune del popolo e che il diritto di proprietà individuale sul suolo è opposto alla giustizia naturale, quantunque sancito dalle leggi civili e religiose». Era quell'opuscolo della Gro tutta un'acerba requisitoria contro l'ignoranza e l'eccidia del clero siciliano. Ed ecco che, a un giorno di distanza, quella pastorale del loro vescovo veniva a darne la prova più schiacciante. Altri, in crocchio, si consigliavano se non fosse prudente mandare più tardi, in segreto, qualcuno dei vecchi più accetti a Monsignore per fargli notare a quattr'occhi anche l'inopportunità di quella pastorale, ora che in paese correva la voce che per l'imperversare ovunque della bufera fosse imminente, se non già avvenuta, la proclamazione dello stato d'assedio in tutta la Sicilia. Si faceva anzi il nome di un generale dell'esercito, nominato commissario straordinario con pieni poteri, quello stesso che da alcuni giorni era sbarcato a Palermo con un intero corpo d'armata. Si diceva che per prima cosa costui aveva fatto arrestare i membri del comitato centrale dei fasci, i quali la sera avanti avevano lanciato un proclama rivoluzionario ai lavoratori dell'isola. Ma Monsignore, scartando con ambo le mani come superflue quelle raccomandazioni e quegli ammonimenti, ordinò al segretario di mandare subito a stampa la sua pastorale, che certo suonerebbe gradita a quel generale comandante il corpo d'armata, e sciolse la riunione per recarsi in fretta a Colimbetra a confortare il principe di Laurentano. Col lungo e strepitoso svolazzo di tonache e di tabarri, quella frotta di canonici, investita dal vento, discese dalle alture di San Gerlando a mescolarsi al subbuglio della città. Sprofondato in quel momento a Roma, fino alla gola, nel pantano dello scandalo bancario, e fiducioso qua in Sicilia, nella sua polizia, o inetta, o arrogante e soverchiatrice, il governo, senza darsi cura dei mali che da tanti anni affliggevano l'isola, senza rispetto né per la legge né per le pubbliche libertà, con l'inerzia o con le provocazioni aveva favorito e stimolato il rapido formarsi di quelle associazioni proletarie che, se avessero subito ottenuto qualche miglioramento anche lieve dei patti colonici e minerari, e se non fossero state sanguinosamente aizzate, presto, senza alcun dubbio, si sarebbero sciolte da sé, prive, come erano, di ogni sentimento solidale e senza alcun lievito di coscienza o ombra di idealità. Questo Lando Laurentano aveva compreso ora troppo tardi sul luogo, e l'animo esacerbato con cui era corso all'invito gli era rimasto oppresso da uno stupore pieno di tetra ambascia, come se i suoi amici gli avessero empito di stoppa la bocca arsa di sete. Scosso dall'urgenza di correre a qualche riparo sotto la minaccia incombente di una violenta, schiacciante repressione da parte del governo. S'era opposto con indignazione ai consigli di prudenza dei suoi amici, smarriti e sbigottiti dalla gravità estrema del momento. Prudenza, ora che a distanza di pochi giorni, nei piccoli paesi dell'interno, a Giardinello, di appena 800 abitanti, a Lercara, a Pietraperzia, a Gibellina, a Marineo, uscivano e si raccoglievano in piazze mandrie di gente senza alcuna intesa, senz'altra bandiera che i ritratti del re e della regina, senz'altra arma che una croce imbracciata da qualche donna lacera e infuriata in capo alla processione. E s'avviavano cieche incontro ai fucili di una ventina di soldati, a cui più che altro la paura di vedersi sopraffatti consigliava all'improvviso di far fuoco, senza neppure aspettarne il comando. Ah sì, nessuno aveva suggerito loro quelle processioni che finivano in eccidi, ma di esse e di tutti gli atti inconsulti e del sangue di quei macellati si doveva ora rispondere, appunto perché quelle mandrie cieche s'erano credute atte e mature ad accogliere la dimostrazione dei loro diritti. E come tirarsi più indietro ora a consigliar prudenza? No, non c'era più altro scampo ormai che nell'ultimo prorompimento di quella pazzia. Bisognava immolarsi insieme con quelle vittime. E Lando Laurentano aveva sdegnosamente rifiutato di opporre la firma a quel manifesto del Comitato Centrale ai lavoratori dell'isola, che, nella solennità del tono perentorio, gli era sembrato anche ridicolo, non tanto per i patti e le condizioni che poneva il governo, ma in quanto mancava ogni realtà di coscienza e di forza in coloro nel cui nome li poneva. Di reale non c'era altro che la disperazione di tanti infelici, condannati dall'ignoranza a una perpetua miseria, e il sangue di quelle vittime. A viva forza, appena proclamato lo stato d'assedio, s'era fatto trascinare da Lino Apes alla fuga. Era fuggito, non per le ragioni che l'Apes, nella concitazione del momento, gli aveva gridate, ma per l'invincibile ripugnanza di far la figura dell'apostolo o dell'eroe o del martire esposto nella gabbia di un tribunale militare alla curiosità e all'ammirazione delle dame dell'aristocrazia palermitana a lui ben note. Come compagni nella fuga, oltre l'Apes, aveva avuto il Bruno, l'Ingrao e Cataldo Scafini, tutti e tre travestiti. Che riso, misto a sdegno e di compassione, che avvilimento insieme e che ribrezzo gli aveva destato la vista irriconoscibile di quest'ultimo, senza più quel fascio di pruni che gli copriva le guance e il mento. Pareva che gli occhi e la voce ancora non lo sapessero e producevano un ridicolissimo effetto di smarrimento nelle loro espressioni, di cui già tanta parte era quella barba che adesso mancava. Ma quel travestimento non tradiva in verità alcuna paura in nessuno dei tre. Era come imposto dalla parte che la necessità della fuga assegnava loro in quel momento, ed entrava in esso anche, e non per poco, il fatuo puntiglio della scaltrezza isolana di fuggire alla sopraffazione della forza pubblica. S'erano internati nell'isola, correndo innanzi alle milizie che da Palermo si disponevano a invadere le altre province. Se fossero riusciti ad attraversarla tutta, si sarebbero rifugiati a Balsasina, e di là si sarebbero imbarcati per Malta o per Tunisi. Dalle impressioni a mano raccolte, internandosi sempre più su quelle misure eccezionali adottate all'improvviso dal governo, era sorto nell'animo di Lando più fermo il convincimento dello sbaglio commesso dai suoi amici. L'antico, profondo malcontento dei siciliani era ad un tratto diventato ovunque fierissima indignazione. per quanto i più alti ordini sociali fossero spaventati dalle agitazioni popolari, ora, di fronte a quella sopraffazione militare, a quell'aria di nemico invasore della milizia che aboliva per tutti ogni legge e sopprimeva ogni garanzia costituzionale, si sentivano inclinati, se non ad affratellarsi con gli infimi, se non a scusarli, almeno a riconoscere che infine questi, finora, nei conflitti, avevano avuto sempre la peggio, né mai s'erano sollevati a mano armata, e che se a qualche eccesso erano trascesi, vi erano stati crudelmente e balordamente aizzati dagli ecidi. La nativa fierezza, comune a tutti gli isolani, si ribellava a questa nuova onta che il governo italiano infliggeva alla Sicilia, invece di un tardo riparo ai vecchi mali. E per tutto era un fremito di odio alle notizie che giungevano, i paesi circondati da reggimenti di fanteria, da squadroni di cavalleria, per trarre in arresto a centinaia, senza alcun discernimento e con furia selvaggia, ricchi e poveri, studenti e operai, e qua consiglieri, e là maestri e segretari comunali, e donne, e vecchi, e finanche fanciulli. Soppressa la stampa, sottoposta a censura anche la corrispondenza privata, tutta l'isola era tagliata fuori dal consorzio civile e resa legata e disarmata dall'arbitrio di una dittatura militare. Come un cavallo rotto, caccia contro sua voglia, lontano dagli ostacoli che avrebbe dovuto superare a un tratto, investito da una raffica turbinosa, si spaventa e si impenna e recalcitra, fremendo in tutti i muscoli. Lando Laurentano, investito dalla veemenza di quell'indignazione generale, a un certo punto s'era impuntato, sentendosi soffocare dall'avvilimento della sua fuga. Era proprio il momento di fuggire, quello di lasciare il campo. Il terreno scottava sotto i piedi, l'aria era tutta una fiamma. Ma possibile che l'isola da un capo all'altro fremente si lasciasse schiacciare, pestare così, senza insorgere, con l'esasperazione dell'odio sì lungamente represso e ora sì brutalmente provocato? Forse bastava un grido, forse bastava che uno si facesse avanti. Giunti a Himera, alla notizia che in un paese lì presso, a Santa Caterina Villahermosa, il popolo era insorto, Lando non poté più stare alle mosse. E nonostante che gli amici facessero di tutto per trattenerlo, gridandogli che non c'era più nulla da tentare, da sperare, e che andrebbe a cacciarsi da sé valorosamente tra le grinfie della forza pubblica, volle andare. Oh, solo Lino Apes lo seguì, ma con la speranza di raffreddarlo ed arrestarlo a mezza via, assumendo per l'occasione, come meglio poté, la parte di Sancho. Perché l'amico, che sapeva sensibile al ridicolo, si scoprisse accanto a lui Don Chisciotte. E difatti, presto, i giganti che Lando nell'esaltazione s'era figurato di vedere in quei popolani di Santa Caterina Villahermosa, insorgenti, a fida della proclamazione dello stato d'assedio, gli si scoprirono molini a vento. Nei pressi del paese seppero che colà non si sapeva ancora nulla di quella proclamazione. Un manifesto era stato attaccato ai muri, ma il popolino lo ignorava. E ignorandolo, al solito, come altrove, coi ritratti del re e della regina, un crocifisso in capo alla processione, gridando «Viva il re, abbasso le tasse!», s'era messo a percorrere le vie del paese, finché, uscendo dalla piazza e imboccando una strada angusta che la fronteggiava, vi aveva trovato 8 soldati e 4 carabinieri appostati. L'ufficiale che li comandava, non per niente si chiamava Colleoni, aveva preso questo partito con strategia sopraffina, perché la folla inerme, lì calcata e pigiata, alle intimazioni di sbandarsi, non si potesse più muovere. E lì, non una, ma più volte, aveva ordinato contro di essa il fuoco. 11 morti, innumerevoli feriti, tra cui donne, vecchi e bambini. Ora, tutto era calmo, come in un cimitero. Solo qua e là il grido dei parenti che piangevano gli uccisi e i gemiti dei feriti. Nel piccolo, squallido camposanto sulla collina, tranne il custode freddoloso con un leggero scialle di lana appeso alle spalle, non c'era nessuno. Seduto su uno sgabelletto a sinistra dell'entrata, quegli stava a guardare apaticamente, nel silenzio desolato, le casse schierate per terra innanzi a sé, come un pastore la sua mandria. Aspettava la visita e le disposizioni dell'autorità giudiziaria per il seppellimento. Vedendo entrare i due, si voltò, poi subito s'alzò e si tolse il berretto, credendo che fossero il giudice e il commissario di polizia. Lino Apes gli si diede a conoscere per giornalista insieme col compagno e Lando lo pregò di fargli vedere qualcuno di quei cadaveri. Il custode allora si chinò su una delle casse più grande delle altre, tinta di grigio, con due fasce nere in croce, e tolse una grossa pietra che stava sul coperchio. Due cadaveri in quella cassa, uno sull'altro, uno con la faccia sotto i piedi dell'altro. Quello di sopra era un ragazzo, divaricate le gambe, la testa affondata tra i piedi del compagno. A guardarlo così capovolto, pareva dicesse in quell'atteggiamento «No, no», con tutto il visino smunto, dagli occhi appena socchiusi, contratti ancora dall'angoscia dell'agonia. «No, quella morte! No, quell'orrore! No, quella cassa per due attufata da quel lezzo crudo e acre di carneficina!» Ma più raccapricciante era la vista dell'altro, di tra le scarpe logore del ragazzo, con grandi occhi neri ancora sbarrati e un po' di barba fulva sotto il mento. Era d'un contadino, nel pieno vigore delle forze, con quei terribili occhi sbarrati al cielo, dal corpo supino, chiedeva vendetta di quell'ultima atrocità, del peso di quell'altra vittima sopra di sé. «Vedete, signore?» pareva dicesse. «Vedete che hanno fatto!» Non una parola poté uscire dalle labbra di Lando e dell'Apes. Il custode richiuse il coperchio e di nuovo vi impose la grossa pietra.